Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? 8.02 minuti e 23 secondi di questo 3 giugno 2024 e Magazine, come ogni lunedì, si parte con la rassegna stampa culturale che dà il via alle rubriche del Breakfast Club. Beh, dal voodoo del last minute a una bacchetta magica declinata in mille definizioni. Raffaele Capasalinari ne dà pagina 8 di Alias nel paragrafo ultra oltre pagina 8 e pagina 9, un long format veramente molto bello. Alle origini, beh, baguette, allora cominciamo da qualcosa che per colazione ci sta. Tradotta in francese, bacchetta baguette, beh, ha delle caratteristiche che l'ha fatta diventare, quindi bisogna attenersi a determinati aspetti come le dimensioni. La baguette è patrimonio culturale dell'umanità, patrimonio dell'UNESCO, è stata dichiarata con tali caratteristiche, cioè ad esempio la lunghezza deve essere 65 centimetri. Ah, ok, avranno pensato così per motivi, sì, anche di comodità, ma guarda caso ci sono attinenze che si perdono nel passato, insieme le scopriremo. Intanto, perché ai tempi di esercito napoleonico, siamo nell'Ottocento, tale dimensione riusciva a occupare poco spazio e essere presente all'interno nello zaino militare. Oh, almeno una baguette in mezzo a tutto quello che è un aspetto bellico, ma non è una grande consolazione, però insomma, e quindi quello che poteva dare conforto trovava anche uno spazio adeguato, la baguette. In Italia non siamo stati così tanto a guardare a centimetri o lunghezza o troppo corto, troppo esageratamente ingombrante, no, lo sfilatino, che non ha tante così preoccupazioni per essere patrimonio come i cugini d'oltre Alpe, che invece sembra, alla baguette ha una storicità incredibile. Dalla baguette alla bacchetta magica. Allora, altre caratteristiche della baguette. Per spezzarla, condividerla, aprirla e fare il famoso panino, non necessita del coltello, bastano le mani, insomma. E questo ha portato ad evitare clamorose risse tra minatori, operai, lavoratori, che finivano male. Quindi, essendo disarmati, tra virgolette, i danni erano decisamente limitati. Ma non solo, lo stesso Marx, attenzione perché adesso vi è un approfondimento importante, diceva: per portare alla cottura una baguette i tempi sono più brevi e quindi non c'è bisogno di una levataccia particolare per i fornai. Beh, i fornai, diceva appunto Marx, non abbiate idea che sia un lavoretto o un lavoro, tanto hanno levatacce di orario, una bella fatica con tutta quella farina, per cui non esito a definirli minatori bianchi. Aveva ragione, accidenti, anzi saluto. E poi una bella cosa di questo articolo, usa la parola fornai, non panificatori, che è un termine che per me veramente ne è abusato e non mi piace, ecco, sarò un passatista, ma per me sono fornai ed è un lavoro oltre che indispensabile, rispettabile, anzi in questo momento, siccome sono anch'io un super mattiniero, saluto tutti i fornai e le fornai all'ascolto. Ma facciamo un passo indietro, come ho detto, e pensate che ne hanno ritrovato prova, perché i famosi magi dalla religione Zoroastro, quando arrivano, alcuni sono dei tre dotati di una bacchetta. La bacchetta, quando siamo bambini, no? Alcuni per avere purtroppo motivo di oggetto contundente, quando si va all'aria aperta a cercare qualcosa, se è senza giocattoli, si trova subito, no? Qualche ramoscello, qualche bacchetta. bacchetto e un bastone anche a volte, e la bacchetta dà un senso, come ho detto, speriamo di no, di oggetto contundente, ma dà anche un'immagine carismatica, se vogliamo, no? Il capobastone si dice molte volte, e in questo caso i magi, che sono figure fondamentali portate poi nell'iconografia cristiana, all'Oriente che si inchina, all'Occidente, chi più ne ha più ne metta, però si presentarono con queste verghe nelle loro mani, e guarda caso l'archeologia, lo studio, l'approfondimento ha portato che la loro lunghezza era di 65 centimetri circa. Ma il materiale, materiale non ne abbiamo parlato. C'è un albero ai quali appunto attingevano rametti e rami per fare queste bacchette, che io chiamerò baguette, no, non le chiamo baguette, sono vere e proprio bacchette, bastoncini. E la pianta è l'albero del melograno. Beh, melograno con questo succo che rappresenta, se vogliamo, anche l'idea di cuore, di sangue, è un succo dal punto di vista alchemico, il melograno, che ha un'importanza citata in ogni testo alchemico ed è un aspetto particolarmente intenso di significati. Beh, Ermete Trismegisto stesso citerà la pianta di melograno. Ermete Trismegisto, colui che avrà modo, per quanto riguarda il simbolo di Hermes per i greci e Mercurio per i romani, presente il caduceo, questo bastone che ora trovate nel logo della farmacia con il serpente che ha doppia valenza, ha allo stesso modo motivo di attenzione come medicale. Dal serpente vengono magari ancora raccolte sostanze che possono essere usate nella composizione dei medicamenti. Allo stesso modo però il veleno, beh, lo sappiamo bene. E c'era chi diceva, vedete, che sia una sostanza medicale o che sia un veleno, alla fine è poi tutta una questione di dosi. Quel qualcuno si chiamava Paracelso, a proposito di alchimia. Sul suono di questo sitar si rientra in diretta, perché non finisce qui. L'articolo è bellissimo, è un long format, l'ho letto e riletto da pagina 8 a pagina 9. Poi arriviamo ai giorni nostri anche in alcuni aspetti riguardanti il cinema. Harry Potter, la bacchetta, vabbè, non sto neanche a dire altro. dovete sapere che innumerevoli sono poi però i riferimenti e i rimandi letterari, ma soprattutto cinematografici, basta pensare alla Fata Madrina di Cenerentola, alla trasposizione disneyana dell'Apprendista Stregone, no? In cui Topolino getta un incantesimo alla scopa perché non ha voglia di fare le pulizie e quindi la mette al suo servizio, ottenendo però poi una gran confusione e l'effetto contrario. C'è un particolare curioso, e in tutto ciò sappiamo bene come l'ideatore abbia la capacità di portare diversi riferimenti. In tutto ciò arriverà un mago più esperto che metterà ordine e si chiama Yenesid. Yenesid, attenzione, ora metto The Magic Wand of Love, questa bacchetta magica dell'amore. Intanto voi pensate, Yenesid, al contrario, che nome dà? Love surely save us all in time. Love is the magic power that will save this world in. Avevi indovinato, al contrario, il nome è Disney. Ha dato un modo autocelebrativo per dire sono io l'autore, ho messo la firma in maniera un po' così. Beh, vogliamo parlare dei rabdomanti? Uno dice sì, ok, rabdomanzia, quindi la veggenza, qualcosa che insomma non è ufficializzato. Beh, fino a un certo punto. Sapete che in Inghilterra invece alcune compagnie, per quanto riguarda le risorse idriche, si affidano a rabdomanti? Tanto più che la prova provata è che in un appartamento è arrivato non l'idraulico con pinze cacciavite, pinze a pappagallo, no, assolutamente, è arrivato con questa bacchetta Y, che non è un caso sia Y perché è la lettera di Pitagora con i tre estremi, no? E ha cominciato a girovagare tenendo per gli estremi più corti questa bacchetta quando hanno detto ma scusi cosa sta facendo? Ah no no, io sono qui per controllare le perdite, per vedere se ci sono accumuli di liquido, di acqua. Ma come? Eh beh, sono un rabdomante. Dunque la magia culinaria dalla baghetta, quella del rabdomante, la bacchetta magica ancora presente nelle nostre vite. Naturalmente ogni bacchetta agita con convinzione e possiede lo stesso potere che altro non è se non quello di catalizzare la nostra stessa volontà di interagire con il mondo attraverso la forza vitale che ci è data. E questa è la conclusione dell'articolo molto bello di Raffaele K. Salinari per quanto riguarda da questo aspetto tra magico e concreto. Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it? Ma sapete chi sono veramente le eroine fino ad arrivare a qualcosa di magico e concreto? E siamo nel 1971. Sono queste ragazze che in Messico, a pagina 7, a proposito di storia o storie vere, Copa 71 per le donne, calcio di punizione, non solo sport. È un documentario che racconta un caso gigantesco di rimozione e discriminazione. La Coppa del Mondo femminile in Messico non è mai stata riconosciuta ufficialmente, conclude così l'articolo che ho letto su pagina 7 della Domenica del Sole 24 Ore. Se volete sapere, intanto hanno giocato, l'hanno fatta tutta la Coppa del Mondo nel 71 per calcio femminile, a parte che sono state ricevute dal pubblico con un grande entusiasmo, vere e proprie star. Beh, la caduta di stile l'hanno fatta la federazione, le federazioni del paese di origine di queste formazioni, tra cui l'Italia, che non se n'è interessata praticamente per niente. Addirittura le ragazze dell'Argentina non avevano le scarpe coi tacchetti. Mi pare alla Francia invece si guastò il pullman nella partita, arrivò in ritardo perché non avevano i fondi per ripararlo, quindi con mezzi di fortuna hanno raggiunto lo stadio in Messico. Non lo sapevo, ma per l'Italia è Elena Schiavo, considerata la giocatrice di calcio più forte del mondo. Di temperamento saturnino, è famosa per i litigi con gli arbitri che spesso penalizzano l'ottima qualità del suo gioco. Quindi caratteristiche assolutamente trasversali. Tutto comunque hanno almeno un punto comune nel passato: l'ossessione di scendere in campo unita alla convinzione di essere un caso umano isolato. Gli sponsor che c'erano potevano fare il giusto, ma gli sponsor c'erano, e come? E volevano questa partecipazione. Certo, le federazioni avrebbero potuto ufficializzare, fare molto di più, gli sponsor sono arrivati fino a quel punto, però hanno chiesto alle ragazze: capisco, vi stanno trattando malissimo, è vostro diritto, dovete giocare, le federazioni vi stanno trattando malissimo. Beh, non solo per motivi economici, ma vi preghiamo di giocare. Scesero in campo, fecero tutti i percorsi, ci fu la finale, alcune squadre, ovviamente Messico, Inghilterra, Argentina, Francia, Danimarca e Italia, fino ad arrivare a questa finale. L'articolo conclude così, che ho letto perché chiaramente allora questa finale, beh, se volete saperne di più non vi resta che guardare il documentario. Giocarono per non fare brutta figura, per non far fare brutta figura ai propri paesi e per allontanare l'ombra dell'avidità che la stampa aveva cucito loro addosso. Cioè, giocano perché ok, dai, prendono due soldi, ma va là, non avevano neanche le scarpe. A distanza di oltre 50 anni, Coppa 71 forse le risarcisce, almeno moralmente, per sapere chi ha vinto. Oh, conclude così l'articolo, basta poi andare al cinema. Vi do alcuni dettagli: per la casa produttrice è la Fandango, gli autori registi sono James Erskine e Rachel Ramsey, Coppa 71 ovviamente è il titolo. Thank you. 12 Robinson, oscilliamo da un magazine all'altro. Ritratti di donna, e che donna, eh? Baronessa ricchissima già dal cognome, Nika Rothschild, per cui già il cognome lascia ben presagire. Nika è l'abbreviazione, perché il suo nome completo è Pannonica. Pannonica è una falena, e un insetto di cui suo padre, banchiere ricchissimo, appassionato entomologo, aveva studiato e collezionato migliaia di esemplari. Innamorato di questa particolare falena, addirittura dal nome alla figlia. Gli appassionati di jazz, quando ho letto Pannonica, ricorderanno un'altra cosina. All'interno di The Brilliant Corner, Thelonious Monk scriverà un brano Pannonica. Perché? Perché questa baronessa è stata la mecenate, si dice anche amante, di Thelonious Monk. Non poteva fare a meno di questo omone così talentuoso, così strano, così carico di un talento atipico ma eccezionale. Pensate che all'epoca Thelonious Monk non era esattamente ancora Thelonious Monk. Beh, lei dal bebop, da questi club sulla 52esima strada, era attratta e affascinata incredibilmente. Cosa fa? Ne diventa la mecenate. Ogni volta che ha problemi legali, perché Thelonious ha avuto qualche sbandata, lo sappiamo bene, genio e sregolatezza Thelonious Monk, lei si è occupata dei legali per toglierlo dalle grane giudiziarie e dalle varie accuse di detenzione di stupefacenti e tanti altri problemi che sono arrivati addosso al grandissimo Thelonious Monk. Beh, la baronessa che diventò musa del jazz ha voluto assolutamente, tra l'altro in collaborazione con la moglie dello stesso Thelonious Monk, un percorso di vita veramente straordinario, con una biografia, un ritratto di donna pubblicato da Neri Pozza, e una bisnipote che risponde a nome di Anna Rothschild porta a questo lavoro che mi incuriosisce, e sono convinto che avrà modo di incuriosire anche le ascoltatrici e gli ascoltatori del Breakfast Club. Il brano Pannonica, beh, certo che Brilliant Corner è un disco meraviglioso, e quindi l'ho voluto riportare in playlist anche a questi magazine. Lui è Thelonious Monk, con lui Sonny Rollins, Max Roach, un vero all-star game di musicisti, da Brilliant Corner. Pannonica, dedicato? Pannonica Rothschild. Concludo questa prima parte, poi torneremo in diretta con uno speciale sul Biografilm Festival. Comunque pagina 6 della Domenica del Sole 24 Ore, scienza e filosofia, e c'è un approfondimento che vede un grande genio. Tra i personaggi del film Oppenheimer di Christopher Nolan si nota l'assenza di John, detto Johnny, von Neumann, una figura chiave del progetto Manhattan. E chi era? Era il matematico. Era quello che portava i calcoli. Beh, mica calcoli immediati, eh? Non è proprio un 2 più 2, no. La personalità di von Neumann, ebreo, ungherese e massimo genio scientifico del Novecento, si sarebbe prestata per fare da controcanto a Oppenheimer, col rischio però di oscurare lo scienziato pentito in cerca di una redenzione. Ecco, non si è quasi mai pentito von Neumann, perché le sue ricerche hanno spaziato dalla matematica alla bomba atomica, dalla teoria dei giochi al computer, la mente più geniale di un'epoca di geni, presagi, la crisi climatica, convincendosi che si andava incontro e verso l'estinzione. Si ammala gravemente. Il più grande genio matematico del Novecento moriva giovanissimo, a 53 anni, di cancro, nell'angoscia e rifiutando di prendere in considerazione le tesi della figlia, che lo invitava a confrontare la sua condizione con quella provocata da persone uccise dagli ordigni radioattivi che egli stesso aveva concorso a costruire. Lo mette davanti a questa responsabilità, non riusciamo a dar torto alla figlia, E pensate che mentre la formidabile mente lo abbandonava, al punto che non riusciva più nemmeno a sommare 4 più 3, mentre da bambino calcolava a mente due numeri di 8 cifre. Lui, ebreo, ateo, chiedeva di ricevere i sacramenti cattolici. Una scelta che per la figlia era la scommessa di Pascal. Sapete qual è la scommessa di Pascal? Anche una probabilità molto piccola di ottenere una vita ultraterrena migliore valeva il costo relativamente banale di una conversione in punto di morte, e quindi la sua teoria di logica alla fine la ricordava, e molto bene. Quindi estremunzione si converte e dice ok, a posto, quello però se l'è ricordato bene, insomma, per questa redenzione. Questa prima parte dei magazine puntualissimi, sono le 8:30 minuti, lunedì 3 giugno 2024, pubblicità già molto mattiniera e puntuale. Ringrazio Alessia Sironi, che tra poco avemo co-protagonista ai magazine in conduzione per questa giornata, e lo spazio che dedicheremo al Biografilm Festival edizione 2024. Quindi a tra poco, dopo gli spot, nuovamente in diretta con la prima colazione, il Breakfast Club. bello questo brano di drum and bass elettronica, The King Cuba, un disco che risale a qualche anno fa, che casualmente ho trovato nel mobilone dei CD per la playlist odierna. Ma non divaghiamo, alle 8:35 minuti, spazio di approfondimento del Breakfast Club ai magazine dedicato al Biograph Film Festival. A tale proposito do il buongiorno, super mattiniera in redazione, ad Alessia Sironi. Buongiorno Alessia. Buongiorno William, a te e anche ai nostri ascoltatori. Iniziamo con questa nuova edizione. Allora, intanto, prima di iniziare, sai che noi diamo un servizio di prima mattina un po' più esteso. Condizioni traffico in città, hai notato qualcosa di anomalo? Il percorso è stato consueto, senza difficoltà? Ma io ero sul 18 in realtà e ci ho messo più del dovuto stamattina. Quindi traffico intenso. Intenso, sì, confermo. Mi raccomando, prudenza, traffico intenso. E ora di punta del resto, quindi abbastanza comprensibile. Torniamo al Biograph Film. A quale edizione siamo arrivati, Alessia? E siamo alla 20ª edizione di questa rassegna. È un festival che è stato curato da Chiara Lamberti e Massimo Benvenu, i due direttori artistici, e in collaborazione con la Cineteca di Bologna, il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, il Mambo, il Cassero. E andrà dal 7 al 17 giugno. E i luoghi del festival saranno il Cinema Lumière, quindi la Casa del Cinema di Bologna, il Dams Lab e poi anche il Pop-up Cinema Arlecchino, il Jolly, e il Chiostro del Compesso di Santa Cristina e il Simpo. Sono film e documentari che stanno esattamente all'interno di quella che è la tradizione, la vocazione del festival. Inoltre si aprono a temi di attualità, sì, come per esempio l'urgenza climatica, i corpi usati come soggetti politici, ma anche la ricerca dell'autodeterminazione e la memoria individuale e la memoria collettiva. Sono i temi principali di quest'anno. Ottimo lavoro. E come prima intervista, tra l'altro, mi pare che tu hai tenuto il dialogo con la protagonista che andremo a presentare. Esatto, con Chiara Lamberti. Biograph Film è arrivato alla sua 20ª edizione, è un successo, un traguardo, ma soprattutto un viaggio di cura di un team molto folto, e quest'anno abbiamo 77 film, 19 anteprime mondiali, un ricchissimo programma che spazia e cerca di far dialogare tematiche universali, tematiche personali, attualità, urgenza climatica, e di parlare col territorio, con le tante associazioni che collaborano al festival, con le proiezioni e gli eventi, tanti ospiti. Cito qualcuno, avremo Joel Meyerowitz, il leggendario fotografo che è stato anche in mostra qui a Bologna qualche mese fa con Two Strangers Try Not to Kill Each Other. Poi avremo Turning the Wounds, film sull'Ucraina raccontato da due sensibilità artistiche incredibili come Abel Ferrara e Patti Smith. Apriremo il festival con Olivier Assayas, che verrà con noi a presentare il suo film, presentato in anteprima mondiale alla Berlinale, e il suo film più autobiografico, quindi quale posto migliore, più coerente, affettuosamente coerente come Biograph Film. E tantissimi altri film che invito tutti a cercare, a scoprire nel nostro sito, sul nostro programma. Quali saranno le novità di quest'anno? La novità è in realtà la coerenza e la passione che mettiamo ogni anno cercando di curare, di creare una selezione che rispecchi le tematiche più attuali, le tematiche più cruciali, appunto l'urgenza climatica, i diritti civili. A proposito, avremo un film che si chiama Stray Bodies sui diritti civili dei cittadini europei, quindi mettendo a confronto vari paesi e diritti che passano dal corpo, soprattutto delle donne. Ma la novità appunto è continuare a fare questo lavoro insieme in un team che sta dietro al festival, che è enorme e pieno di energia, che cerca di far convergere questi 11 giorni appunto di storie di vita, di omaggi. Avremo un omaggio a Paolo Caredda, con il ritorno dell'opificio Ciclope, che è una realtà produttiva importante a Bologna. L'anno scorso hanno presentato con successo This is Bologna, è un programma che appunto parla di attualità, parla di universalità e cerca di far convergere e di parlare a un pubblico più vasto possibile. Pollici, lui è il produttore Bart Friedman. And the new dub players. Allora, ventesima edizione per quanto riguarda Biografilm Festival, se ho capito bene, oggi 3 giugno, in partenza è il 7, Alessia? Sì, il 7, dal 7 al 17, e scusatemi, prima ho commesso un errore, chiedo scusa agli ascoltatori, l'edizione è curata da Chiara Liberti. Perfetto. Insieme a Massimo Benvenu. Eh beh, dopo pagherai il caffè. Mi sembra giusto. No, che dopo dicono, ma tu taglieggi i tuoi collaboratori. No, assolutamente. Sto scherzando, ovviamente. Però siamo a colazione, dai. C'è qualche appuntamento, qualcosa che ti ha colpito particolarmente, che vuoi sottolineare, Alessia? Ma, direi la premiazione, cioè la premiazione il 7 di... Oliver di Oliver Assayer, la pronuncia anche in questo caso, ma va bene, non è facile, che riceverà il Celebration of Life Award. E questo è un appuntamento da sottolineare. Sì, insomma, esatto, la prima sera. Ok. E poi con te ha collaborato Rachele, la nostra caporedattrice pomeridiana musical culturale dei 103.1, e ha intervistato Massimo Benvenu, se non mi sbaglio. Sentiamo appunto le sue parole allora. 20 di vita biografi, mi immagino un gioco di parole per i 20 anni, 20 ma anni. Anche un po' di vento d'aria fresca. Cerchiamo di dare un po' di vita al panorama cinematografico della città, che non ne ha bisogno per sé. Bologna in questi anni è sempre più capitale di cinema e iniziative. In tutto questo Biografilm festeggia 20 anni di vita